con Paolo del Forum dei Movimenti per l'Acqua per parlare dell'appuntamento nazionale con un dibattito assemblea dal titolo Una legge per modello pubblico partecipato gestione acqua a Roma al Millepiani Coworking sabato 23 febbraio 2019. Paolo, ben trovato. Sì, ciao a tutte e tutti. Io partirei dal lungo percorso dei movimenti per l'acqua che ha portato al referendum. Ci racconti un po' brevemente questa avventura? Sì, sono ormai oltre 10 anni di storia, perché il forum, cioè questa rete nazionale di comitati, organizzazioni, sindacali, associazioni, nasce nel 2006 e la prima iniziativa fu proprio quella di promuovere una legge di iniziativa popolare per arrivare ad una gestione pubblica dell'acqua, perché, come sappiamo, la privatizzazione di questo servizio era iniziata ormai a fine anni 90, quindi ci fu questa prima iniziativa di successo rispetto all'adesione e alla condivisione dell'opinione pubblica, perché raccogliemmo oltre 400.000 firme, però ovviamente le istituzioni non risposero adeguatamente e rimase indiscussa. Poi il tentativo di privatizzazione definitiva del governo Berlusconi nel fine 2009, per cui la raccolta firme per il referendum e poi il referendum nel 2011 e quella straordinaria vittoria con quasi 27 milioni di italiane e italiani che andarono a votare per dire sì all'acqua pubblica, sì sull'acqua. E oggi ci troviamo a avere di nuovo in discussione alla Camera la nostra proposta di legge, che formalmente non è più quella perché la normativa prevede che è piegata dopo 2 legislature, ne sono passate già appunto dal 2007 e quindi oggi è stata depositata dall'onorevole Daga, che è una deputata dei 5 Stelle, che proviene, ha militato anche nei comitati per l'acqua. E quindi abbiamo voluto promuovere un dibattito perché c'è una grande mistificazione, direi proprio un vero e proprio terrorismo mediatico su questa legge, sugli effetti e sugli impatti economici, un po' diciamo quel dibattito distorto soprattutto dai media mainstream con i suggerimenti e le veline delle grandi lobby economico-finanziarie, dibattito simile a quello che stiamo vivendo sulla TAV e che abbiamo vissuto qualche mese fa sul TAP, e quindi questa iniziativa intende rimettere un po' in sesto la discussione con dati reali e non manipolati o inventati e spiegare anche, illustrare un po' quali saranno effettivamente i benefici che si trarranno da una ripubblicizzazione della gestione dell'acqua, con ovviamente tutti i comitati del Movimento per l'Acqua che parteciperanno, con il professor Lazzariti, costituzionalista noto, che ci ha aiutato nel tempo e ci continua anche continua a dare il suo contributo da giurista sull'elaborazione, diciamo, di un nuovo modello anche di gestione pubblica, di tutela di un bene comune essenziale come l'acqua, rappresentanti istituzionali, perché ovviamente la battaglia poi si è portata anche in Parlamento e quindi abbiamo invitato anche parlamentari sensibili al tema e poi ci saranno rappresentanti di organizzazioni. Questo nella mattina. Il pomeriggio, partendo dallo specifico dell'acqua, invece vogliamo riagganciarci a un altro percorso, che è quello che guarda la manifestazione contro le grandi opere inutili e per diciamo, no ai cambiamenti climatici, per il clima, la marcia per il clima del 23 marzo, e quindi volendo contribuire, stando dentro quella mobilitazione, ci è sembrato utile costruire un momento di confronto, di dibattito tra le varie realtà che stanno animando questo percorso come tappa di avvicinamento alla manifestazione del 23 marzo. Per chi ci ascolta, semplificando, quali sono i vantaggi di una gestione pubblica e partecipativa dell'acqua? Innanzitutto pubblica, che quindi diciamo, esce fuori da qualsiasi logica di mercato e di profitto. Ora, questo ovviamente ha delle conseguenze pratiche ben precise: il fatto che non si possa far profitto, quindi le bollette potranno anche diminuire, oltretutto si potranno garantire, nonostante un'eventuale diminuzione, si potranno garantire gli investimenti per dare un servizio di qualità ai cittadini, cosa che invece non è garantito oggi, perché oggi uno dei grandi problemi della gestione del servizio idrico è che qualcuno ci lucra, ci fa profitto, cioè estrae profitto da questo servizio e non vengono fatti gli investimenti, per cui ci rimette il cittadino che non riceve una qualità, ci sono distacchi per morosità elevatissimi in tutta Italia, quindi non viene garantito un diritto, viene fornita acqua di scarsa qualità, viene restituita all'ambiente acqua di scarsa qualità, se ne consuma molto più del necessario, perché è evidente che se è un prodotto che io vendo ho tutto l'interesse a che ne venda sempre di più, e non mi curo ovviamente di fare gli investimenti per riparare le perdite delle reti, quindi disperdendo una grandissima quantità d'acqua. Ecco, tutte queste criticità ovviamente in un battibaleno, però per noi, diciamo, la gestione pubblica e partecipativa, quindi con il controllo delle comunità locali, quelle che la Costituzione, l'articolo 43 della Costituzione, chiama comunità di lavoratori e utenti che possono espropriare e quindi arrivare a gestire per la pubblica utilità un servizio, diciamo, potranno effettuare quel controllo e coadiuvare la gestione e quindi, diciamo, arrivare a un servizio efficiente ed efficace nell'interesse di tutti. E quindi questi sono sostanzialmente i grandi benefici e gli obiettivi ovviamente che si pone questa proposta di legge. Due curiosità: questo modello può prevedere posti di lavoro e un risparmio per la cittadinanza? Guarda, sicuramente si può invertire una rotta rispetto ai processi di privatizzazione che, come praticamente in tutti i casi, hanno portato a una riduzione dei livelli occupazionali nel settore. Pensiamo solo a un dato emblematico: negli ultimi 15 anni di gestione dell'azienda fiorentina Publiacqua, che è partecipata da Acea, quindi l'azienda romana, si sono persi circa 200 posti di lavoro su 700, quindi diciamo siamo quasi all'intorno al 30%. Ecco, è evidente che la gestione pubblica invece potrebbe consentire uno stop, diciamo, a questa perdita di posti di lavoro, ma secondo me anche eliminando per esempio tutti i vari subappalti con cui oggi lavorano gran parte delle aziende, si potrebbe anche arrivare a un implemento dei livelli occupazionali e soprattutto riuscirebbe a garantire più diritti ai lavoratori di quanto non lo siano oggi, perché queste aziende lavorano in gran parte appunto in subappalto e che quindi anche con contratti di precariato non a tempo indeterminato, e quindi diciamo si andrebbe anche a tutelare tutto quel settore lì. E oltre al fatto che già accennavo prima, a una possibile economicità più economica, diciamo, delle tariffe, perché già il fatto di poter eliminare la quota di profitti, diciamo, garantirebbe una possibile riduzione che noi abbiamo quantificato in alcuni casi, perché poi le tariffe sono differenziate sul territorio, che possono arrivare anche fino al 25%, quindi in qualcosa di non influente, credo, e quindi sicuramente sì. In chiusura, Paolo, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sicuramente potete trovare tutte le informazioni sia sul sito del Forum dei Movimenti per l'Acqua, che è acquabenecomune.org, sia sulla pagina Facebook, che è la pagina Facebook Acquabenecomune, e comunque domani appunto inizieremo intorno alle 10:30 con il dibattito sulla legge al Millepiani Coworking, che si trova a Garbatella a via Niccolò Odero 13, e proseguiremo fino poi al pomeriggio parlando della legge sull'acqua e della questione dei cambiamenti climatici e la lotta contro le grandi opere. Benissimo, gli appuntamenti li hai ricordati tu, ricordiamo allora questo appuntamento nazionale di dibattito assemblea per una legge per un modello pubblico e partecipativo della gestione dell'acqua. Paolo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi dell'attenzione, come al solito. Ciao ciao.